Le 18. Resto con te che tu stai con me. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh. Benvenuto a questo programma che facciamo di domenica pomeriggio. Sono benissimo quando noi siamo con te, quando voi siete con noi. Allora, domenica pomeriggio, sono le 18, appena dopo le 18. Io che sono irlandese, per me questo è domenica sera. Però qua al sud a Napoli e in tutta Europa stiamo trasmettendo. Però qua giù non si capisce se è domenica o pomeriggio, non si sa. Allora andiamo un po' indietro con la bella musica. Connessione in corso. Attendere, prego. Summer, that's John Cicada with Stop. You're listening to the best music here on Radio Tour, the moving station, accompanying you on domenica pomeriggio, domenica sera. Voi dove siete? Che state facendo? Voi siete tornando dal mare magari in macchina ascoltandoci? Siete, non lo so, ancora al mare, sulle spiagge? Forse quest'ora è l'ora più bella di stare sulle spiagge, direi. Comunque, dovunque che siete, se avete il cellulare con voi, perché non ci mandate un messaggio? Il numero, come sapete già, immagino, è 0348 24 38 88 88, e questo è il numero che dovete per forza programmare, come si dice, ricordare nella vostra cellulare. Fate pip pip pip e mettere Radio Tour, questo è il numero 0348 24 38 888. Ho trovato questo messaggio qua quando sono arrivato. Don Rossana, spero che ci stai ancora ascoltando, Rossana, perché vuoi salutare a Lori che martedì fa l'esame, anche a Isa, Diego, Flavio e tuo amore che oggi parte e forse si rivedranno a settembre. Ci fa ballare il super DJ che ci ricorda di ballare di sabato sera, e mamma mia come ci siamo divertiti ieri sera e l'altro paio di sere, oppure a Neapolis Rock Festival i super DJ c'erano, e oppure super musica del rock. Siamo tutti stanchi qua, però riprendiamoci perché domenica sera ci aspetta, e anche adesso aspetto una bella cosa per voi, perché adesso voi avete l'opportunità di scegliere la musica che mettiamo adesso, perché siamo arrivati quasi al momento di Just For You. Adesso voi dovete chiamarci, basta fare il numero 081 790 1411 oppure al GSM Box 0348 24 38 888. La descrizione di un attimo è come si descriverebbe un attimo, non lo so, però io lo vorrei tenere un attimo in memoria, un attimo, un ricordo della loro bella esibizione ieri sera. E faceva proprio caldo ieri al Bagnoli, al Neapolis Rock Festival, però con la bella musica stavamo abbastanza fresca, e pure sulle spiagge. Anche oggi scendendo stavo proprio soffrendo di questo calore, però meno male mi trovavo proprio dentro il mio Fiat Punto, che avevo l'aria condizionata fresca, risparmato tutti i guai che mi crea questo calore. Insomma, tutatevi anche voi nell'estate in fiore. Fino al 31 do Fiat Fiore 600 do 11 milioni e 800 mila lire, Punto do 15 milioni e 900 mila lire, Brava e Bravo do 21 milioni e 400 mila lire, in più 6 mesi di assicurazione, furto e incendio totale, e per finire il finanziamento fino al 60 mesi dell'interno valore dell'auto. Radio Tour ti invito a provare 600 punto Brava o Bravo presso la concessionaria Fiat Fiore in Napoli a Viale Kennedy 5860, in via Volpicello 43, in via Scarfoglio 7 o ad Ercolano in via Cozzolino 132. Concessionaria Fiore, il fior fiore della Fiat. E adesso... Pronto! Connessione telefonica. Request one. Adesso accontentiamo Monica, che ha visto le Rishes ieri sera al Neapolis Rock Festival e vuole sentire La Cubana. The moving station, just for you. Ho ricevuto tantissimi messaggi sul nostro GSM Box, quindi forse è il caso che inizio a leggerli, perché se no non riesco ad accontentare tutti entro le 20, quando me ne vado a casa a mangiare una bella pasta. Allora, prima voglio salutare a Christine, che purtroppo non posso accontentare le richieste adesso, poi Annalisa e Diavolo, che sono tornando dal mare. Raffi dice che vuole dedicare una canzone a Frankie o Franci per dirgli ti amo ancora. Poi c'è finalmente sono solo a casa per 2 giorni con la pazza gioia e voglio mandare un mega kiss a mia Raffi. Va bene. Francesca vuole salutare a tutti quanti e Ilaria saluta ad Alessandro. Poi Davide e Michele per RT. Ma chi è questo RT? E poi c'è Donny che sta aspettando il momento di partire e ci manda un sacco di saluti. Thank you very much. Allora, volete sentire un brano? Chiamateci, perché siamo arrivati ad un altro momento quasi di Just For You. Cubana e la musica inglese o americana quasi. Comunque è un grandissimo successo per Jennifer Lopez with Let's Get Loud. Pronto? Connessione telefonica. Request E Radio Tour regala a Maurizio un gadget fermato Pendium. Trend superato. Pendium è la moda che ti mette in movimento. E per Maurizio facciamo sentire Billy Moore con Up and Down. La bella musica di Gemelli Diversi, la bella musica here on Radio 2 The Moving Station. Voi siete con noi siamo con voi. Sono le 18:50 minuti, quindi ci abbiamo ancora un altro bel po' da trascorrere insieme. Allora, avete mai provato di mangiare, non lo so, tanti hot dog insieme, tutto in un botta? L'anno scorso c'era un campione del mondo, Steve Kiner si chiama, che ha mangiato bel 15 hot dog in 12 minuti, che se ci pensi non è poco, è tantissimo. Però già quest'anno è stato superato alla grande, perché sono arrivati i giapponesi e infatti Katsutoyo Arai, di altezza 170 centimetri e peso 45 kg, è riuscito in 12 minuti di mangiare 25 hot dog. Al secondo posto c'era Takako Akasaka, come si chiamano questi giapponesi, che ha mangiato soltanto 24 hot dogs in 12 minuti, quello è uno ogni 30 secondi. Poi l'unica partecipante donna è arrivato terzo con 22 hot dog, pazzesco questi. Allora andiamo con la musica, Alex Party e Wrap Me Up. Wrap Me Up for Me, che conclude questa prima ora del programma con Fergo Kavanagh e Fiore alla regia. Allora, tra poco vediamo che ore sono, che adesso davanti a me vedo l'orologio. Basta chiamare un po' a chiedere in inglese come si dice, ladies and gentlemen, l'orologio. Ladies and gentlemen, the clock. Le 19. Radio Tour, The Moving Station. Questo tema qua, Boys, questo viene da Bon. Questo è il nostro nuovo hit per la seconda ora con Fergal e Fiore. Connessione in corso. Attendere, prego. Siete collegati con la macchina del tempo di Radio Tour. Strano vederti massa. Questo è stato numero uno e sempre numero uno. La classifica dei brani più richiesto da voi su Radio Tour The Moving Station. Voi mandate tutti i brani che volete a noi, cioè mandate la richiesta. Noi le segnaliamo alla fine del mese, fine della settimana, anzi, raccogliamo tutto e facciamo la bella classifica che voi potete sentire sia sabato che domenica pomeriggio on Radio Tour The Moving Station. Ok, quindi vi ricordo che il nostro numero di GSM Box è il 0348 24 38 888. E devo salutare ad Antonio che ci ha scritto. Grazie Antonio, questo è Gigi D'Agostino, L'amor toujours. The Love Bite with Take Your Time. Sapete tutti quanti cos'è The Love Bite, no? The Love Bite sarebbe quello morso che quando in un momento di passione un amante dà suo amore sul collo. Molto imbarazzante. Comunque, non lo so se è successo a voi, a me mai, però mi dicono che la dentifrice aiuta. Strano questo che io uso per pulire le denti, perché le devo usare per pulire il collo? Non lo so, comunque Take Your Time vuol dire prenderlo con calma, però se voi lo prendete con calma non sareste il primo a chiamarci per il Just For You, perché siamo arrivati quasi a quell'appuntamento. Chiamateci subito, andiamo con Luna Pop. Cos'è successo? Qualcosa di grande, c'è qualcosa di grande tra di noi, ovviamente tra Antonella e Mario di Cusano c'è qualcosa di grande tra di loro, perché mi ha scritto sul GSM Box dicendo: per Antonella ti amerò per tutta la vita e oltre. Allora ecco Antonella, devi andare lì a casa sua stasera e darle un grande bacio. Ok, quindi you're listening to Radio Tour The Moving Station, domenica pomeriggio o domenica sera. Ma quando arriva questa sera, la stacca tra pomeriggio e sera, mi volete mandare un messaggio e spiegarmelo, perché io sono un po' confuso. Questo italiano, oltre alla lingua, alla civiltà, alla cultura, poi è un po' confusing, no? Non lo so, boh. E Radio Tour regalo a Francesca un gadget fermato Pendium. Trend superato. Pendium è la moda che ti mette in movimento. E Francesca ci ha chiesto gentilmente i Bon Jovi con It's My Life. Houston con George Michael, che la vuole dire? Forse vuole dire che li ama. Well, non credo, infatti, perché Whitney Houston è sposata con Bobby Brown e George Michael non ha nessun interesse in Whitney Houston, credo, che tutto quello che hai sentito di loro. Comunque, questo If I Told You da tantissime persone stanno dicendo a uno all'altro ti amo. Non lo so, il GSM Box è impazzito qua, che arrivano lì e messaggi di amore. Ma perché? È il sole di Napoli, è il sole di domenica pomeriggio che vi fa impazzire. Comunque, mi mi fa piacere perché l'amore è una bella cosa e con questo voglio dire Marco, you know that Renato loves you, she says ti amo. Ok, allora per tutti quanti voi innamorati o non innamorati, questa è la vostra opportunità di scegliere la prossima brano che facciamo sentire adesso su Radio Tour The Moving Station, perché siamo arrivati all'ultimo appuntamento di Just For You di domenica di questo fine settimana. Chiamateci subito. Again, questa è una lezione per tutti quanti che vogliono, chi vogliono fare cose, che vogliono fidanzarsi. Oops, I did it again. Con calma, l'amore è una cosa preziosa e la godiamo. Pronto? Pronto? Pronto? Connessione telefonica. Request one. E Radio Tour regala Davide e Michele un gadget firmato Pendium. Trend superato. Pendium è la moda che ti mette in movimento. E per loro facciamo sentire un bel brano con cui divido moltissimo. Dolce Far Niente di Lorenzo. Dire girate, girate. Wow, questi sono i Pops and Scar with Turnaround. Allora mi raccomando, prendete una penna e un pezzo di carta perché dovete segnare questi belli appuntamenti che adesso vi diamo. Radio Tour, The Moving Station. La radio. La seconda tappa del Gran Galà del Piano Bar, venerdì 14 luglio al ristorante Le Due Palme, presso le Terme di Agnano a Napoli. Radio Tour c'è. Il tour estivo di Gigi Proietti col suo nuovo spettacolo A me gli occhi, mercoledì 19 luglio al Molo Angino nel Porto di Napoli. Info 081 761 1221. Radio Tour c'è. Radio Tour. Radio Tour. La radio dei grandi eventi. When a Woman, che bella. Questo Gabriele è proprio un mito della musica che ha avuto molto successo qualche anno fa e poi non si è sentito più niente finché mo è rientrato e ritornato con questo brano. Anzi, c'aveva un altro prima e adesso questo, veramente bello. Allora, quasi quasi è arrivato il momento di salutarci. Infatti voi immagino siete, dove siete? Immagino che siete, spero, non in troppo traffico, però rientrando dal mare, beato voi. Noi vogliamo salutarvi con un bel brano richiesto di più di voi. Questo richiesto da Ilario per Alessandro e anche per Kristen. Questo è Neck with Ci Sei Tu. Neck, yes, ci sei tu, ci siete voi che ci state ascoltando e ci sono io che adesso me ne vado. Credo che sia finalmente arrivato la sera, non lo so, l'ora 20 sono la sera, boh, comunque il pomeriggio non ci sta più di sicuro. Comunque io voglio ringraziare tantissimo a Fiore che è dall'altro lato di questo. Fiore, perché hai messo gli occhiali del sole? Mamma mia, tra poco tramonta. Vabbè, che c'ha questo bel sorriso e questo bel capello pure. Grande Fiore, grazie. Voglio ringraziare a tutti voi che ci avete ascoltato. Spero che mi raggiungete la settimana prossima, sabato pomeriggio alle 15, quando faccio la classifica dai brani più richiesti da voi. Vi auguro la migliore e migliore cosa, the best for this week which is coming. Have a very good week. Thank you very much. This is Fergal Kavanagh. Alla prossima.